Dicono che con te dovrei farci conti per non lasciarmi buchi dentro al cuore. E se il freddo di gennaio ti è rimasto un po' negli occhi, amico mio, io non posso farci niente. Sai che io non so scrivere canzoni, ma so sempre criticarle così bene. E così chiusero tutto e ne fecero una valigia troppo pesante da portare in due. E una sera lei gli disse: mi dispiace, non ti credo, già ho per te pronta questa nuova strada. Più avanti, amore mio, ci troverai i tuoi sogni tutti al tavolo di un bar. E vestiti di utopia, quelli ce li avevi addosso, ma vestiti da signora mi tenevi nell'armadio. Mi hanno amato per un trucco che non potevo avere, tu ora invece prova ad amarmi solo per quello che vedi. La faccenda, amica mia, si fa più seria. Quel che vedo, vedi, mi toglie tutto il fiato. La pazienza è una virtù degli uomini più saggi, ed allora mi sa tanto che io ero un po' cretino. Giusto il tempo per contare su che stelle camminavi, che una sera tu l'hai spente per essere la più bella. E ho bevuto fino ad ubriacarmi quel liquore che hai portato a casa mia. E ora Barbara sorride e mi dice che è strano che io riesca a capire le tue canzoni. Qualcun altro un domani che di questo non sa nulla potrebbe non trovarci proprio niente di speciale. Le canzoni sono atroci vendette. Che potere, amica mia, che mi ritrovo. Certezze sono gli alibi per tradire gli ideali, e da grande traditore io le cerco nei tuoi occhi. Ma tu attenta a non voltarti e non farmele trovare. Io non valgo quel che vali, ognuno vale quel che vale. E poi da mesi che non ho più 30 anni, spero solo tu non voglia ripassare.